Radio 24 Reportage. Nel sud del Libano con i caschi blu di Cristina Balotelli. Ok, Spad, possiamo andare. Spad ricevuto. Usciamo dalla base militare di Shama, nel sud del Libano, per dirigerci verso la località di Al-Bustan, dove un'unità del genio guastatori è impegnata nella ricerca di mine da far brillare. Viaggiamo su tre veicoli militari dipinti di bianco con la scritta UN, United Nations, insieme ai caschi blu di UNIFIL, la missione ONU nel sud del Libano. Ai lati della strada, sui piloni dell'elettricità o sui tetti delle case, sventolano le bandiere gialle di Hezbollah e quelle verdi di Hamas. Il sud del Libano è la roccaforte di Hezbollah, il partito di Dio. Per chi non se lo ricordasse, a pochi metri l'uno dall'altro sono stati affissi numerosi poster giganti con i ritratti dei leader sciiti: Hassan Nasrallah, il numero uno di Hezbollah, Nabi Berri, il leader di Hamas, principale alleato, l'imam Musa Sadr, carismatica figura politica e religiosa per gli sciiti, e l'Ayatollah Khomeini, a sancire il legame con l'Iran. Ma ci sono anche numerose immagini dei martiri, i combattenti di Hezbollah morti in battaglia oppure saltati in aria, come Imad Mughniyeh, ex capo militare del Partito di Dio, vittima di un'autobomba a Damasco della quale è sospettato il Mossad israeliano. Una gigantografia del suo viso è collocata proprio fuori dalla base militare italiana, a pochi metri dall'entrata. Noi stiamo lavorando sul sito di Bravo 23, sul sito sono state già rinvenute 9 mine distrutte, mine antiuomo, le numero 4. In questo momento noi siamo tra la seconda e la terza riga minata. A questo punto stiamo lavorando, stamattina stanno lavorando. L'operatore, nel momento in cui vede che c'è una mina, avvisa il team leader che si trova sul corridoio. Il team leader a sua volta avvisa me, io vado e metto la tuta, indosso la tuta e vado a controllare se effettivamente è una mina numero 4. In quel momento io chiedo autorizzazione al mio comando e iniziamo a procedere per il brillamento. Il sergente Dario Gambardella e il capitano Emanuele Amicarella ci accompagnano al cosiddetto corridoio. Questo qua è il picchetto a testa russa da 60 cm, quindi che è il corridoio bonificato. Dopodiché abbiamo il picchetto a testa gialla che indica il punto dove stava la mina e dove poi è stata distrutta. Ci sono le coordinate e il numero della mina, il modello della mina. Sotto di 20 cm ci sta l'accenditore della mina, un accenditore vero di una mina, e su questo accenditore viene calibrato il metal detector, il ricercatore di metalli. In base a un suono noi ci rendiamo conto più o meno la mina a che distanza sta. Qui possiamo camminare tranquilli tra i picchetti. Siamo tranquilli tra i picchetti, ovviamente da quel punto in poi. Da quel punto in poi è da bonificare. Come vedete noi bonifichiamo a 20 cm sottoterra, cioè quello che è il livello del naturale del terreno, garantiamo 20 cm al di sotto con la bonifica manuale. Quindi l'operatore procede gradualmente in avanti, proprio perché deve sondare, analizzare il terreno a 20 cm profondità. Prima con lo strumento e poi manualmente. Lo rimuoviamo e andiamo avanti. Gli incidenti capitano? Grazie a Dio noi non sono mai successi. Possono capitare, però sicuramente con l'addestramento che hanno i ragazzi e poi anche con tutte le norme di sicurezza, sono molto molto rigide, sicuramente il rischio è praticamente minimo. Nell'area in prossimità della Blue Line ci sono mine. Il campo minato risale anche al 1976, nel senso che alcune mine sono state messe a partire dal 1976, altre sono state collocate più di recente, ultimo durante appunto l'ultima guerra tra Israele e Libano, quella del 2006. Adesso loro hanno avuto un suono, hanno sentito qualcosa col metal detector, stanno indagando su che cos'è, come ha spiegato prima il sergente, quindi stanno verificando se è una mina oppure è soltanto una scheggia, un metallo, qualcosa di metallico che è all'interno del terreno. Quindi come vedete loro avanzano col pennellino in maniera molto molto molto minuziosa e molto attenta, attenzione. In termini tecnici questa si chiama ricerca strumentale, adesso passa alla ricerca manuale. E quindi adesso lui col pennellino piano piano andrà a scavare, a indagare qual è la ragione di questo suono. Potrebbe trovare una mina come potrebbe trovare un pezzo di scheggia o un qualcosa di metallico. però giustamente noi dobbiamo andare a verificare ogni cosa. Il 21esimo reggimento Genio Guastatori lavora seguendo una mappa del campo minato elaborata dagli israeliani e donata a UNIFIL. Capitano, per fare lo sminamento di un corridoio di qualche chilometro ci vogliono anni? Quando parliamo di chilometri, sì, considerando, come abbiamo detto prima, il nostro avanzamento è di 60 centimetri, 2 metri al giorno, è normale. Noi non lavoriamo su queste grandi distanze. Lavorate su distanze di metri? Di metri. Qui noi lavoriamo su distanze di circa 120-130 metri. Il ritrovamento di una mina è un'operazione molto complessa, richiede tempo, richiede accurate misure di sicurezza. È stata trovata una mina, cosa succede adesso? In questo caso io avvertirò il mio deputy site supervisor del ritrovamento della mina. Le procedure sono molto semplici, andiamo a applicare una carica vicino alla mina e appena ci daranno l'ordine di fuoco faremo brillare la mina. L'attività di sminamento da parte di UNIFIL è cominciata nel 2007. Oltre alle mine si possono trovare anche altri tipi di ordigni o prevalentemente sono mine anti-uomo, anti-carro? Su questi campi noi troviamo e ci aspettiamo di trovare soltanto mine antiuomo anticarro. Ovviamente alcune zone che sono state zone di conflitto c'è il rischio e c'è la possibilità di trovare anche altri ordigni inesplosi sul terreno. Oltre alle mine, i nostri militari hanno bonificato circa 38.000 metri quadri di territorio libanese dalle cluster bombs o bombe a grappolo, molte finite inesplose nei frutteti. Poi, nel novembre 2009, hanno assunto l'incarico dello sminamento. Lasciamo il sito per andare dalla Task Force Italbat 2, un avamposto militare dove i soldati di UNIFIL hanno il compito di monitorare il confine. Siamo sulla Blue Line, che è una linea di demarcazione, non è un confine, tra il Libano e Israele. Non è appunto un confine stabilito, ma è un insieme di 198 punti geograficamente determinati da coordinate UTM, parzialmente identificati sul terreno da dei border pillar. Il 100° pillar sulla Blue Line è stato posato la mattina del 12 giugno 2010. Qui c'è una base UNIFIL dove stanno gli italiani. Il colonnello Antonino Palumbo è il comandante. Ci sono dei punti sensibili che creano maggiori problemi? Generalmente no, i punti caldi e sensibili vengono ovviamente valutati in base a una generale situazione territoriale. Non esiste dei punti caldi, esiste soltanto il rispetto della 1701, di cui noi siamo ovviamente i conduttori, e ciò significa monitorare il territorio affinché non sia riscontrabile un movimento sia di armi o di altro materiale che potrebbe essere usato da una delle due parti. Il generale Giuseppe Nicola Tota, comandante del contingente italiano in Libano. La presenza di UNIFIL fa del bene a tutti quanti, fa del bene prima di tutto al Libano del Sud, nel senso che, come ripeto ogni volta che incontro un leader o l'agente del posto, io gli dico: potete dormire se non tranquilli perché ci siamo noi. Va bene per Israele perché collaboriamo con l'esercito libanese al controllo e quindi insomma alla sicurezza anche di Israele da questo settore. Va bene per il governo libanese perché diciamo è più sicuro di avere verso il confine diciamo critico qualcuno che garantisce la sicurezza e l'organizzazione. Anche se comunque questa presenza non potrà continuare all'infinito, a un certo punto UNIFIL andrà via. Per essere efficace UNIFIL dovrà finire. Noi siamo nella terza fase, che è una fase di collaborazione e di stabilizzazione. Nel momento in cui noi certifichiamo che questi momenti sono raggiunti, abbiamo garanzia dell'efficienza, dell'efficacia dell'organizzazione di polizia e militare qui nel sud del Libano, noi possiamo scalare di fase. La missione in Libano costa allo Stato italiano circa 300 milioni di euro in un anno. il generale Alberto Asarta Cuevas, comandante della missione UNIFIL. Il lavoro che fanno gli italiani qui in Libano è straordinario e non lo dico per adularli, è la verità. Quello italiano è il contingente che apporta il maggior numero di soldati, quasi 2000. Inoltre l'Italia sta facendo anche un grande sforzo con il CIMIC, la cooperazione civile militare. È il paese che maggiormente contribuisce ai progetti a impatto rapido e questo è molto importante, è fondamentale per la popolazione del sud del Libano, perché apprezzano molto ogni sforzo che viene fatto per migliorare la loro qualità di vita. E l'Italia lo sta facendo molto molto bene. Abbiamo dimostrato che stiamo portando avanti bene la missione sotto il mandato della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il cessate il fuoco è stato già compiuto perfettamente. Ci sono piccoli incidenti che possiamo risolvere senza grandi difficoltà. Tutto questo grazie al fatto che UNIFIL è qui e che c'è buona coordinazione con le due parti, Libano e Israele. Quanto durerà UNIFIL? Io non lo so. Credo che ora sia il momento che i politici comincino a lavorare per un cessate il fuoco definitivo.